Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Enrico Nosei di Cineteca Milano Meet per presentare il film Bad Poems di Gabor Reitz alla Cineteca Milano Meet, appunto, da sabato 5 giugno 2021. Ben trovato. Grazie, ben trovati a voi. Raccontiamo brevemente questo film. Questo è uno dei nostri cosiddetti colpi di fulmine. Abbiamo suddiviso la programmazione in sezioni. Una è appunto il colpo di fulmine, che raccoglie insomma film che noi proponiamo in anteprima esclusiva per l'Italia, film recenti, recentissimi. I primi che abbiamo messo in calendario sono tra il 2018 e il 2020, e in particolare proprio Bad Poems, Rost Versek nella sua versione originale. Bad Poems è il titolo internazionale. È un film del 2018 che partecipò al Torino Film Festival di quell'anno e vinse anche una menzione speciale della giuria. Del resto Gabor Reitz con Bad Poems è all'opera seconda. Con l'opera prima, che si intitolava Per qualche inesplicabile ragione, For some inexplicable reason, aveva vinto il premio del pubblico sempre al Torino Film Festival del 2016, mi pare. Non è escluso che proveremo ad avere anche questo secondo suo film, che in realtà è il primo, per rendergli un ulteriore omaggio. Cosa curiosa, Gabor Reitz, che è un quarantenne appunto qui all'opera seconda, è anche in entrambi i film che ho citato, è anche l'attore protagonista. E se si vede il film si capisce in qualche misura perché. Come poterlo definire? Una volta si sarebbe detto un film sui sentimenti, un film sull'amore. È un film sulla crisi in cui si ritrova un 35enne Tamas, perché viene abbandonato dalla fidanzata con la quale viveva fuori dal suo paese, il film è ungherese. Lui in qualche modo subisce questa separazione, torna a casa sua, ritrova la famiglia, ma questo stato di crisi gli permette anche di fare una specie di bilancio della sua vita, di ripercorso della sua vita, per cui il film è costruito anche con una libertà narrativa molto particolare, fatto di andirivieni temporali, lui si rivede bambino, poi si ritorna al presente, e tutto questo però con una freschezza, con una spontaneità, con una delicatezza che ci hanno letteralmente conquistati. A me ha fatto venire in mente, proprio per la struttura anche drammaturgica del film, Michel Gondry di Se mi lasci ti cancello, insomma un film che è diventato molto famoso, amatissimo da tanti, e che parlava anche quello di una separazione in definitiva. Però io trovo che Bad Poems ha in più rispetto a quel film, poi magari anche delle cose in meno, per carità, ma insomma ha in più questa leggerezza venata di malinconia che lo rende emotivamente molto forte. E un'opera dove non si sente mai niente che possa rimandare a un artificio, a una costruzione, a un autocompiacimento. La sincerità è proprio il suo marchio di fabbrica, direi. All'estero che percorso ha fatto? Ha fatto un buon percorso nel suo paese, in Ungheria, però insomma questo è uno di quei film e di quegli autori che sono un po' emergenti, perché appunto ancora relativamente giovani e qui solo all'opera seconda. Ha fatto molti festival naturalmente, ha vinto qualche premio nei festival, ma sono proprio quei tipici film che noi andiamo a cercare fra le pieghe, diciamo così, della produzione internazionale, in particolare europea. Diamo un po' un'occhiata di riguardo alla produzione europea, anche se poi in futuro ci saranno anche dei colpi di fulmine non soltanto dei paesi europei, ma che a parte in patria fanno magari un po' fatica a essere distribuiti fuori dal loro paese. Però in patria ha avuto molto successo, lui è un autore considerato appunto uno dei più promettenti della cinematografia di quel paese, l'Ungheria. In un panorama complessivo che vede in Italia arrivare comunque poche opere dalla Mitteleuropa. vede arrivare poche opere che non siano precedute o da aver vinto dei festival importanti, ma spesso neanche quelle arrivano, o dall'avere degli attori già in qualche modo celebri, conosciuti, famosi. Cioè è vero che la distribuzione italiana da questo punto di vista non appare essere molto coraggiosa. D'altra parte è un po' sempre il solito discorso del cane che si morde la coda: non c'è il pubblico per questi film. Sì, però è anche vero che se non provi a trovarlo non lo saprai mai, o comunque non farai mai niente per crearlo anche un pubblico per opere di questo genere, che fra l'altro proprio nel caso di Bad Points non sono film da cinefili duri e puri, non sono film particolarmente complessi o difficili da vedere, da apprezzare. Sono film molto belli, molto emozionanti, insomma, questo anche, ripeto, nonostante il suo tono sempre un po' malinconico, è il modo migliore per parlare senza drammi, senza tragedie, senza aspetti troppo lugubri delle nostre fragilità, quelle che ci riguardano tutti. Tutti siamo stati abbandonati da qualche fidanzata o abbiamo abbandonato qualche fidanzata, tutti abbiamo vissuto i tormenti amorosi. Questi sono davvero, qualcuno lo ha scritto citando Roland Barthes, insomma, frammenti di un discorso amoroso, sono frammenti di un percorso amoroso, se vuoi, che ci riguardano tutti, insomma, che sono di carattere universale, e il film riesce a trasformarli in qualcosa che riguardano tutti noi. E questo ci è piaciuto molto, insomma. Come funzionerà la programmazione alla Cineteca? Abbiamo deciso di fare un calendario settimanale, cioè che dura 5 giorni, perché per il momento il lunedì e il martedì non proiettiamo, e quindi è sempre una programmazione che va dal venerdì al giovedì successivo. È settimanale proprio perché vogliamo tenerci le mani un po' più libere rispetto al passato, quando facevamo programmi di 3-4 settimane e una volta che erano fatti gli spazi erano occupati. Invece adesso così possiamo anche essere più elastici e poter magari inserire anche all'ultimo momento anche qualche film che magari esce in Italia, qualche film del mercato italiano che però rientra un po' sia dal punto di vista estetico che autoriale nei nostri parametri. Non è che obbligatoriamente dobbiamo fare film che abbiamo preso noi in esclusiva, così come continueremo a tenere viva la strada anche degli autori classici. Adesso abbiamo fatto un focus con 5 film nuovi francesi inediti, esclusivi per noi in Italia, però ci abbiamo messo vicino 7 film di Claude Chabrol, perché c'era anche l'opportunità di presentarli in versione restaurata dalla MK2 di Parigi, e quindi abbiamo questo focus sulla produzione francese fatto sia di film nuovi che di, in questo caso, un autore super classico e anche super bravo come è stato Claude Chabrol. Quindi procederemo un po' in questa direzione. È chiaro che abbiamo aperto la programmazione questa il 12 di maggio, stiamo anche prendendo un po' le misure, poi adesso tutti i cinema fanno molta fatica, i film che funzionano neanche così bene, ma insomma sono pochissime, sono quelli più famosi, da The Father a Nomadland eccetera, ma vediamo che c'è una certa difficoltà anche da parte del pubblico a tornare in sala, ma siamo assolutamente convinti che insomma la situazione sia destinata a migliorare, speriamo anche molto rapidamente, insomma, quindi per poter anche fare le nostre proposte, sapere che c'è qualcuno che ci osserva, che ci tiene d'occhio e che è pronto a raccoglierle. Il film Bad Poems di Gabor Reitz alla Cineteca Milano Meet da sabato 5 giugno 2021. Un saluto e un ringraziamento. Se posso, l'ultima precisazione. Sì. Facciamo programmi settimanali, ma non è che alla fine di quella settimana questi film scompaiono. Tipo Bad Poems è previsto che farà una tentura di 15 produzioni, quindi andrà avanti per un po' e chi l'avrà perso prima potrà recuperarlo nelle settimane successive. Se no magari qualcuno pensa che il programma settimanale significa che i film si esauriscono in una settimana, non è così, non è così. Un in bocca al lupo e alla prossima! A voi e vi ringrazio, grazie, alla prossima! Con Francesco Del Grosso, co-regista del documentario In Prima Linea, al cinema da giovedì 10 giugno 2021. Ben trovato. Ben trovato a voi. Che storia è? È una storia importante che riguarda 13 fotoreporter che hanno partecipato ai principali teatri di guerra negli ultimi 40 anni, 50 anni. E quindi grazie a loro abbiamo avuto la possibilità di conoscere porzioni di storia che altrimenti non avremmo mai conosciuto. E lo abbiamo fatto, lo stiamo facendo grazie al loro sacrificio e soprattutto alle loro fotografie, che sono delle vere e proprie testimonianze. E quindi in prima linea questo documentario che ho realizzato con Matteo Balsamo, che come hai ricordato tu verrà distribuito dal 10 di giugno dalla Trent Film, è il racconto corale di questo mestiere, però visto attraverso un punto di vista intimo e privato che non era mai stato affrontato dal cinema, cioè chiedersi e chiedere che cosa provavano e cosa hanno provato nel momento in cui scattavano e hanno scattato le loro foto. Quindi diciamo il film ruota intorno a questo concetto per cercare anche di spazzare via tutta una serie di stereotipi legati appunto all'iconografia e all'immaginario che non rispecchia alle volte quello che sono le reali verità della vita e del lavoro di queste persone. Come era nata l'idea? Dal desiderio di realizzare un film che parlasse appunto di questi aspetti e da questo punto di vista che era inedito. In più nessuno aveva mai messo insieme queste 13 personalità così diverse, sia per età che per sesso, per provenienza, per stile fotografico, per approccio alla materia. E l'unico elemento comune a loro, alcuni di loro neanche si conoscevano e si conoscono, è il fatto appunto di aver condiviso o comunque di aver affrontato delle zone calde, dei teatri di guerra, la cosiddetta prima linea. Però volevamo raccontare una prima linea che non è soltanto dove si spara e cadono le bombe, ma anche una prima linea dove c'è la resilienza, dove la gente prova a sopravvivere e a portare la propria vita avanti nonostante appunto la guerra e tutto quanto quello che la guerra comporta. E quindi abbiamo pensato con Matteo di realizzare questa coregia con un film assolutamente indipendente che ci permettesse di abbattere tutta una serie di stereotipi, a cominciare dal fatto che le donne non possono fare questo mestiere quando ce ne sono e ce ne sono di bravissime, sia in Italia che in tutto il mondo, e poi appunto che queste persone non fossero altro che dei giornalisti o comunque dei reporter o dei fotografi mossi semplicemente dall'adrenalina, dal bisogno di confrontarsi con i teatri di guerra, quando in realtà ognuno di loro ha delle esigenze che sono anche private e sono soggettive. Quindi diciamo il film è nato per questi motivi qui. La scelta di questi 13 nomi? È stata quasi una selezione naturale che è venuta studiando, cercando. Volevamo, sia io che Matteo, mettere insieme delle figure completamente diverse, quindi non avere dei doppioni, passatemi il termine tra virgolette, cioè volevamo mostrare i diversi aspetti, i diversi approcci, e questo lo potevamo fare attraversando le generazioni, diversificando i sessi, quindi avere sia uomini che donne, ma anche vedere attraverso le loro fotografie in che modo si prova a raccontare la guerra con approcci completamente differenti, perché come dice uno dei protagonisti non c'è sempre bisogno di andare a mettere la testa sotto le bombe per documentare la guerra è ovunque, la guerra è per le strade quando ci sono le rivolte, dove non c'è lavoro, dove i migranti muoiono sui barconi, cioè la guerra c'è ovunque, quindi noi abbiamo raccontato quello che c'è prima, quello che c'è dopo e quello che c'è nel mezzo della prima linea, che molte volte sono dei civili, sono delle persone che perdono la vita senza un motivo. Che impressioni ne hai ricavato? Per abitudine io nel momento in cui giro i film mi metto dalla parte dello spettatore, quindi nel momento in cui giro i film certo c'è una documentazione, c'è uno studio a priori, però proprio perché l'intenzione sia mia che di Matteo è sempre stata quella di rendere il film fruibile a tutti, volevamo fare un film che trattasse temi universali e quindi questo passava attraverso un percorso di scoperta. E quindi per rispondere alla tua domanda, quello che abbiamo ricavato è la scoperta di un mestiere e delle emozioni che si provano nel farlo, e quindi scoprire delle personalità completamente diverse, conoscerle anche con tutti i loro dubbi, con le loro incertezze, con le loro paure, che poi sono anche quelle che magari possiamo vivere anche noi, non in situazioni, perché ovviamente noi non affrontiamo dei teatri di guerra, però ci sono delle difficoltà, delle paure che sono comuni, e quindi quello che abbiamo ricavato è stato soprattutto un carico emozionale, ma anche dei racconti fortemente umani che poi hanno lasciato e stanno lasciando il segno anche nel pubblico, chi ha già visto il film nei numerosi festival al quale ha partecipato. Il documentario In prima linea al cinema da giovedì 10 giugno 2021. Un saluto e un ringraziamento al coregista Francesco Del Grosso. Un in bocca al lupo e a presto. Grazie, a presto. Con Francesco Notarangelo di Mescalito Film per la distribuzione del film Fine Lines di Dina Creino in uscita l'8 giugno 2021. Ben trovato. Sì, salve, buongiorno a tutti, ciao Federico. Che storia racconta? Racconta la classica storia di alcuni famosi scalatori alpinisti che affrontano le più dure salite e le loro difficoltà che incontrano e i motivi per cui decidono di scalare determinate vette piuttosto difficili. Quindi, oltre ad avere delle immagini spettacolari e meravigliose, presenta diversi punti di vista sul perché e le difficoltà che loro stessi hanno incontrato durante la loro vita per prepararsi, per allenarsi, oltre alle stesse difficoltà che si incontrano in vetta. Dove hai incontrato questo film? L'abbiamo trovato grazie al Trento Film Festival. Vinse un premio della giuria l'anno scorso, quindi nel 2020, 20. Ovviamente per motivi di pandemia non siamo riusciti ad uscire, l'abbiamo protetto e poi alla fine per rilanciare un po' sia noi stessi, sia l'aiutare gli esercenti, sia importare un po' la gente al cinema, abbiamo deciso di farlo uscire. Anche perché ormai abbiamo stretto ormai da alcuni anni una grossa e fitta collaborazione col Trento Film Festival, quindi stiamo diventando specializzati su una montagna di scalate, per cui abbiamo sempre un occhio di riguardo verso determinate opere. Cosa ti ha convinto maggiormente? Innanzitutto le immagini, perché sono riprese con un drone, perché sono attente, meravigliose e spettacolari, e poi il fatto che comparissero personaggi, alpinisti, scalatori molto famosi. Cosa sappiamo di questa regista? Ha lavorato come produttrice e poi si è dedicata a Fine Lines, nel mentre sta lavorando su un altro film di montagna tra gli Emirati Arabi e Dubai. E altro non ti so dire, penso che riguardi sempre il mondo della montagna, ma non lo so. Il film del 2018 ha avuto modo di avere una circuitazione internazionale prima della pandemia? Hong Kong e di sicuro in America, anche perché presenta diversi e più famosi scalatori come ad esempio Tommy Caldwell o un attimo che è il protagonista di Free Solo, compare pure Reynolds Messner. E poi doveva toccare l'Italia, però ovviamente abbiamo rimandato la data di uscita e adesso siamo pronti e vediamo che succede. Come è stato accolto all'estero? Devo dire abbastanza bene, tant'è che anche la regista si aspettava di poter fare, come dire, un salto in Italia presentando in diverse città. Stavamo organizzando il tutto, ma purtroppo, causa appunto pandemia, non abbiamo potuto effettuare il viaggio, non abbiamo potuto uscire con il film, però devo dire che il riscontro del pubblico è stato positivo. Ma soprattutto perché ci sono tutte queste testimonianze che danno un valore aggiunto all'opera. Che tipo di uscita sarà? Sarà una classica uscita ad eventi, quindi 1, 2, 3 giorni al cinema. Al momento siamo già 3-4 giorni a Trieste, e quindi classico evento in cui la gente può andare, compra il biglietto, vede il film e poi speriamo ovviamente di farlo girare all'interno delle arene e poi magari riuscire ad organizzare a dicembre una rassegna vera e propria sulla montagna. Attenzione, quando uso il termine rassegna tendo a dire non una rassegna di opere già passate in montagna, ma 3 opere prossime e inedite sulla montagna, e magari vorremmo in alcune città aggiungere appunto anche Fine Lines. Per saperne di più ci lasci dei riferimenti internet? Ah, certo, assolutamente, sempre il nostro sito, quindi www.mescalitofilm.com, sempre la nostra pagina Facebook, quindi mescalitofilm.com. E colgo l'occasione anche per invitare le persone a seguire il nostro festival, siamo già alla seconda edizione, che è mescalitobioficfest.com, che faremo la seconda settimana di novembre, faremo delle proiezioni gratuite all'interno del Cinema dei Piccoli a Villa Borghese. Riporteremo tutte opere inedite, tra cui cortometraggi, documentari e film di visione, tutte il cui unico tema è il biopic, quindi storie di vita vera, di vita vissuta. Documentario Fine Lines di Dina Creino al cinema dall'8 giugno 2021. Un saluto e un ringraziamento a Francesco Notarangelo di Mescalito Film che lo distribuisce. Un in bocca al lupo e a presto. Grazie mille, grazie. Ciao.

I riferimenti web ce li hai dati, prima edizione dell'hiphopcinefest.org dal 7 al 20 giugno 2021, saluto e ringraziamento alla direttrice Giulia Giorgi. Un in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie, a prestissimo, ciao a tutti. Con Lorenzo Batocchioni dell'Associazione Piccola America per presentare il cinema in piazza. In tre arene, a Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci, dal 4 giugno al 1 agosto 2021. Lorenzo, ben trovato. Ciao, buongiorno a tutti, grazie a voi. Presentiamo anche, per chi non la conosceste, l'Associazione Piccola America, come nasce tutto. Ormai una decina d'anni fa, forse un po' meno, quando noi ragazzi usciti dal liceo siamo andati un po' spaesati e abbiamo deciso di creare un ponte tra ragazzi del liceo e dell'università, in cui denunciavamo e facevamo una serie di attività per rivendicare tutto quello che in quello che era la nostra città, la nostra capitale, non ci trovavamo, a partire quindi dalla cultura. E poi negli anni, dopo anche l'occupazione del cinema America, abbiamo deciso di focalizzare tutto su quello che era il cinema, e quindi per noi è un po' il simbolo di tutte le nostre battaglie di rivendicazione culturale. L'arena come si caratterizza? L'arena, come è andata avanti negli anni scorsi, anche quest'anno saremo in tre piazze in contemporanea a giugno e luglio, solamente che quest'anno le arene sono San Cosimato, Cervelletta e Monte Ciocci. San Cosimato e Cervelletta ormai a Roma sono abbastanza conosciute perché appunto sono quelle in cui negli ultimi anni siamo stati, mentre invece Monte Ciocci è una novità. Abbiamo salutato il porto turistico di Ostia degli anni scorsi, che è uscito dall'amministrazione giudiziaria ed è passato alla gestione nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, e quindi pensiamo di aver finito il nostro percorso. Lì siamo passati invece a Monte Ciocci, che è un'arena molto particolare, con la vista sul cupolone dove Ettore Scora girò Brutti Sporchi e Cattivi, e quindi salutiamo appunto questa nuova esperienza. Le tre arene sono totalmente gratuite, con prenotazione obbligatoria, in quanto per le normative anti-Covid, un giorno per giorno dalla mattina si potrà prenotare sul sito prenotaunposto.it il proprio ticket, e poi a San Cosimato avremo retrospettive di Gianfranco Rosi, Ospetec, Pietro Marcello, Selin Sciamma e film d'animazione Disney. A Cervelletta avremo Satoshi Kon, Ken Loach, Wim Wenders e tutta la retrospettiva di Harry Potter. Invece a Monte Ciocci avremo Emil Kusturica, Mario Monicelli, Laika e Charlie Kaufman. È prevista anche la presenza di autori e autrici? Come appunto negli ultimi anni il nostro obiettivo è sempre stato quello di far incontrare il pubblico con i veri attori del cinema, quindi registi e tanti altri che compongono e sono la vera macchina che realizza questi meravigliosi film. Avremo quindi Ken Loach, Emil Kusturica, Matteo Kassovitz, come negli ultimi anni, tornerà sempre, ormai è diciamo un appuntamento fisso. Poi avremo in videocollegamento Wim Wenders e il maestro Edgar Wright. Apriremo a San Cosimato con i nostri ormai amici di sempre, i fratelli di Innocenzo, Matteo Garrone e Carlo Verdone, e ci tengo molto a sottolineare l'apertura di San Cosimato con i fratelli di Innocenzo, che presenteranno Favolacce, perché con loro ci sta anche Ileana D'Ambra, che è una giovane del cinema italiano, e ci tengo molto perché lei è una delle ragazze come me che fa parte del collettivo, quindi noi ci teniamo molto. Cioè, il cinema per noi è questo, il Cinema America e le Arene, è anche portare avanti dei film che sono fatti anche da noi stessi. Abbiamo tanti ragazzi che studiano e fanno cinema. Quindi in realtà si ci danno tantissimi ospiti, anche lo stesso Fertan Ospedec verrà, quindi sì, ci teniamo molto a questo. Quanti siete voi dell'Associazione Piccola America per gestire tutte e tre le arene? 20-30 fissi dentro il collettivo, che siamo tutto l'anno, quindi non solo durante le arene, ognuno diciamo dà il suo contributo, e poi però durante le arene la squadra si allarga molto, arriva anche a 40-50 ragazzi, che sono quelli appunto che ci danno una mano, quindi contatti più o meno interni e esterni che collaborano con noi durante l'estate. Anche questo è uno dei punti per noi più importanti, infatti uno dei nostri appunto obiettivi è quello di creare e dare la possibilità a ragazzi romani di lavorare, di fare qualcosa di attivo durante l'estate, mentre purtroppo molto spesso nella nostra città l'estate, luglio, a partire da agosto muore un po' tutto, e questa cosa da settembre sarà ancora più continuativa, perché è molto easy finalmente dopo tutti questi anni di lavoro, l'ex Cinema Induno, e quindi dal 30 settembre aprirà questa sala, avremo la possibilità di fare quello che facciamo durante tutto l'anno e aprire anche una sala studio H24. Sono anni che ne abbiamo chiesto al primo municipio, la possibilità di fare questa sala studio, però finalmente ci riusciremo in uno spazio nostro a tutti gli effetti gestito da noi. Tornando alle arene, ogni arena avrà proiezioni quotidiane? Sì, ogni giorno ci saranno quindi 3 schermi accesi sulla città, tutti i giorni dal mercoledì alla domenica, e lunedì e martedì invece riposo settimanale. Appunto, come avevo accennato prima, le retrospettive sono diverse, però sì, ogni arena in contemporanea tutti i giorni avrà una proiezione attiva, quindi anche noi ci dividiamo in 3 squadre, in 3 team. Una singola proiezione per ogni arena e l'orario? L'orario è un po' delicato perché all'inizio ci sarà ancora il coprifuoco, noi abbiamo deciso di non aspettare e partire comunque, e quindi per il 4, 5, 6 giugno l'appuntamento sarà alle 20, in modo da garantire alle 23 un deflusso dei partecipanti. Dal 9 al 13 giugno gli eventi con ospiti inizieranno alle 20:30, mentre quelli con ospiti già alle 21:15, e poi dal 16 giugno in poi, quando appunto sarà il coprifuoco rimandato e comunque non ci sarà più il problema del rientro, le proiezioni reinizieranno come gli anni scorsi alle 21:15. Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli? Tutta la programmazione sta sulla nostra webpage, che è ilcinemainpiazza.it, tutto attaccato, e anche lì ci sarà il richiamo per prenotarci. Comunque invece la prenotazione avviene tutti i giorni per il giorno stesso, quindi è importante, se voglio andare la sera, la mattina mi devo prenotare, su prenotaunposto.it, tutto attaccato. Il cinema in piazza nelle 3 arene di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci dal 4 giugno al 1 agosto 2021. Un saluto e un ringraziamento a Lorenzo Batocchioni dell'associazione Piccolo America che organizza. Un in bocca al lupo e a risentirci presto. Crepi, grazie a voi, buona giornata, grazie dell'ospitalità. Con Lupo De Matteo per parlare del suo brano Roma Deserta, di cui è stato realizzato anche un videoclip dal papà Ivano De Matteo e che aprirà le arene estive del cinema in piazza dell'associazione Piccola America. Lupo, ben trovato. Grazie mille. Questo brano di cosa parla? Questo brano è nato in un periodo molto particolare, sia per me ma immagino per molti ragazzi, nel senso che è stato sia scritto che composto proprio in generale. Mentalmente non è mai stato semplice né per me né per gli altri ragazzi che ci sono stati appresso per molto tempo, poiché appunto è nato durante la quarantena in sostanza, o comunque durante il periodo della zona rossa, nel quale, come potrei immaginare, né per me né per molti altri era semplice né vivere né men che meno essere particolarmente creativi. Quindi volevamo trasferire un senso di libertà, di speranza che mancava sia a noi, e in qualche modo farlo sentire ai ragazzi, sia a chi poteva esserci più lontano. Molte persone anche dell'età di mio padre, a quanto pare, ha percepito le emozioni che volevamo trasferire. Ci parli anche un po' della band? Al momento non è una band, abbiamo voluto creare un qualcosa di nuovo, nel senso che suoniamo io e un ragazzo la chitarra, che è Alessandro Giovannelli, in arte Giovannelli con la Y, e Niccolò De Donatis, in arte Dedo. Di per sé diciamo che si è venuto a creare una sottospecie di struttura che mischiava sia band appunto, ma anche questo nuovo modo di creare la musica molto più moderno, che è appunto la musica da studio, la musica da box. Il pezzo è nato in un box garage, in sostanza. Ci siamo incontrati casualmente perché tutti e tre suonavamo, poi con Giovannelli mi ci conoscevo un po' meglio, e con il tempo appunto, grazie fortunatamente alla possibilità di avere un luogo dove potevamo stare insieme, ovviamente seguendo tutte le regole che ci erano imposte, tra cui anche il coprifuoco, man mano abbiamo creato un certo tipo di legame che ha portato appunto alla creazione di questo pezzo. Qual è la vostra formazione musicale? Nel brano si sentono influenze rock anche anni 60, sì, e rap. Certo, questo è dovuto dal fatto che siamo tre persone particolarmente differenti, sia per studi proprio musicali, perché io personalmente ho studiato per un po' d'anni pianoforte, Giovannelli ha studiato per molti anni la chitarra e la chitarra elettrica, Niccolò sta comunque intraprendendo degli studi di produzione, ha fatto anche lui chitarra, e quindi in generale da quel punto di vista eravamo particolarmente differenti, ma è ancora più divertente il fatto che loro due erano molto più ferrati sulla musica rock anni 70, sono proprio degli amanti di quest'ultima, mentre io in qualche modo ho cercato di portare un qualcosa sì di moderno, ma anche rapportato a quello che magari piaceva più a loro, e si è creato questa sottospecie di connubio particolare che però dal mio punto di vista è sia divertente ma anche funzionale. L'idea di girare il videoclip su un tetto? È stata un'idea di mio padre, che insieme a mia madre, che è sceneggiatrice, no? Dovevamo fare questo video, ma non si trovava un modo né per farlo, e dovevamo tirare fuori appunto un'idea al più presto, e così l'idea è uscita con mia madre. E il tetto in sé doveva figurare un po' questa libertà. Mi è stato detto da molti che riconduceva magari a uno degli ultimi live dei Beatles, però in realtà non c'è stato alcun tipo di ispirazione. Volevamo semplicemente trovare un modo, questo tetto con il sole, con tutto il panorama che si vedeva a Roma, per poter appunto ricreare un senso particolare di libertà, di speranza. E la sinergia con l'associazione Piccolo America come è venuta fuori? È stata una casualità, nel senso che ho avuto la possibilità di far sentire il pezzo a Valerio Carocci, il quale a quanto pare stava cercando da molto tempo un brano da sostituire fra l'altro a Mano, quindi come posso dire, per me che faccio musica da un po', ma in maniera professionale neanche da troppo, nella pratica proprio mia, l'ha sentito, ha detto questo pezzo è fortissimo, gli è piaciuto molto e a quanto pare rispecchiava anche ciò che stava cercando, perché da quello che mi ha spiegato comunque sia il fatto che ci fosse questo senso di rivalsa, ma soprattutto il fatto che fossimo noi dei ragazzi molto giovani, nel senso io ho 19 anni, Niccolò per dire ne ha 17, Alessandro ne ha anche lui 19, l'ha appassionato molto. È stata una cosa che l'ha colpito. E poi dal momento che l'ha sentito ha detto questo è quello che stavo cercando, e niente, ci ha detto questo colpo di fortuna, insomma. E siamo particolarmente felici perché comunque loro sono delle persone che si stanno muovendo in maniera davvero rispettabile, soprattutto nell'ambito culturale. Quindi poter essere un piccolo standard di quest'ultimi sicuramente un piacere è stato per noi. Quindi ora aprirà tutte le serate delle tre arene estive del Cinema in Piazza. Volete incidere poi? Credo di sì, cioè nel senso se mai appunto piacesse, magari appunto vediamo, ci sta un certo tipo di richiesta, non sarebbe un'idea male. Anche perché io sono un amante dei dischi, della parte proprio fisica della musica, quindi non mi farebbe dispiacere. Il videoclip sarà pubblicato? Il videoclip dei ragazzi del Cinema America verrà pubblicato prossimamente con il mio pezzo, e quello mio sì, è già uscito il 27. Il brano Roma Deserta, del quale è stato realizzato anche un videoclip da Ivano De Matteo, e che aprirà le tre arene estive del Cinema in Piazza dell'Associazione Piccola America. Un saluto e un ringraziamento al musicista Lupo De Matteo. A presto! Grazie mille, buona serata. Con Rosalba Colla, direttrice artistica, per presentare i tre appuntamenti con il Festival dell'Animazione Autoriale Animafix. Con Animafix Streaming Experience online dal 31 maggio al 28 giugno 2021, Animafix Live a Bagheria dal 27 luglio al 1 agosto e Animafix Young online dal 12 al 15 ottobre 2021. Rosalba, ben trovata! Ciao, buon pomeriggio. Ci racconti di questa triplice esperienza? Sulla falsariga un po' del 2020, visto che gli scenari in realtà sono sempre improbabili e difficili, insomma, anche un po' da gestire da un punto di vista dell'organizzazione di un festival, abbiamo appunto nuovamente riproposto questo format che ci ha in qualche modo convinto in realtà anche per l'anno scorso. Si tratta in effetti di una estensione non soltanto digitale ma anche temporale, quindi articolato in tre tappe, Per cui una prima tappa è quella dedicata per l'appunto alle interviste, quindi incontri con gli autori ed una retrospettiva dei loro film che presentiamo in streaming. Questa è per l'appunto, come dicevi prima, l'Animafix Streaming Experience ed è uno spazio virtuale che effettivamente l'anno scorso ha avuto un grande riscontro, raggiungendo appunto un pubblico anche geograficamente distante da noi. Per poi arrivare invece a luglio a quella che è l'attività centrale, con un programma molto ricco, con non soltanto dei film in competizione ma anche quelli fuori concorso, sezioni speciali, quindi retrospettive, focus, quest'anno per esempio dedichiamo un focus particolare alla Repubblica Ceca e diverse altre sezioni, comprese attività collaterali come cineconcerti che non sono mancati anche l'anno scorso, quindi siamo riusciti ovviamente sempre fronteggiando questo terribile momento che però insomma ci auguriamo adesso che si allenti un po' il tutto anche da un punto di vista dei protocolli eccetera, per poi continuare invece con Animafix Young, che è una sezione rivolta alle scuole. Normalmente si svolgeva in una sala cinematografica, ancora abbiamo voluto riproporre la sezione online, quindi non soltanto rivolta, dicevo, alle scuole, entrando virtualmente nelle classi attraverso l'uso della LIM, ma anche aperta online alla libera utenza. E quindi ecco che il primo momento è quello, dicevo, di questo spazio virtuale fatto di incontri con autori tra i più significativi del panorama internazionale dell'animazione, tra cui Juan Pablo Zaramella, Magda Guidi, un grande Pierre Bert, Martina Scartelli. Sono 6 incontri, uno a settimana. Di ognuno presentiamo dei film corti, no? Perché lo sai, il nostro è un festival dedicato ai corti di animazione d'autore, con un orientamento diciamo molto sperimentale, autoriale, che amiamo definire corti d'artista. Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più? Per quanto riguarda Streaming Experience, ma poi anche quello in preparazione per luglio, tutti i riferimenti è possibile trovarli sia sul sito web animafix.com, e Facebook, la pagina Facebook, Instagram, e con anche diversi incontri, ecco, sarà possibile visionarli anche sul nostro canale YouTube. 3 appuntamenti con il Festival dell'Animazione Autoriale Animafix, Streaming Experience online dal 31 maggio al 28 giugno 2021, Live a Bagheria dal 27 luglio al 1 agosto 2021 e Young online dal 12 al 15 ottobre 2021. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Rosalba Colla. Un in bocca al lupo e a presto. Grazie, vive il lupo. Arrivederla, a presto. Con Mario Sesti per presentare l'ottava edizione di Cinema al Maxi dal 25 maggio al 21 luglio 2021. Mario, ben trovato. Grazie Federico, eccoci di nuovo finalmente. Con la riapertura quindi cambiano un po' le condizioni, raccontiamo questa ottava edizione. Vabbè, per forza di cose, non dipendenti dalla nostra volontà, si tratta di un'edizione molto particolare perché tradizionalmente Cinema Maxi si faceva nei primi mesi dell'anno. Abbiamo spinto un po' più avanti nel sogno di poter contare sulle riaperture, cosa che è accaduto. E quindi la fantasia della storia vuole che Cinema Maxi, Extra Doc e Video SF Film Festival saranno le prime manifestazioni di festival, eventi di cinema, che in città vedranno finalmente delle persone vere, dei corpi veri, in luoghi veri, incontrare immagini e suoni veri che scorrono sullo schermo, quindi niente Zoom, niente streaming, niente online, no? Ma c'è la presenza proprio di persone che non conosci, che vedono insieme a te delle cose che chiamiamo film. Extra Doc, come sai per averlo seguito sin dall'inizio, è il festival dedicato specificamente al documentario italiano e, come negli altri anni, credo ancora di più, ne celebra la versatilità. Quindi ci sono immagini di Fellini, per esempio in Fellini Io sono un clown di Marco Spagnoli, che ricostruisce la storia di un famoso film di Fellini fatto addirittura

Ci lasci tutti i riferimenti web per i dettagli? Anche per le prenotazioni c'è il sito del Palazzo delle Esposizioni, quindi www.palazzoesposizioni.it. Lì appunto c'è sia tutto il programma, orari e appunto tutte le informazioni per la modalità d'accesso, le prenotazioni. Ovviamente la sala è al 50% della capienza, ovviamente bisognerà indossare la mascherina, ma insomma come tutte le sale attive in questo periodo. Decima edizione della rassegna A qualcuno piace classico, appunti di storia del cinema, a Roma, Palazzo delle Esposizioni, dal 18 maggio al 30 giugno 2021. Un saluto e un ringraziamento a Stefano Finesi dell'associazione La Farfalla sul Mirino, uno dei curatori della rassegna. Un abbraccio e a presto. Grazie Federico, a presto, ciao a tutti. Con Andrea Paco Mariani di OpenDDB, distribuzioni dal basso, per sapere quello che succede sulla piattaforma per questo mese di giugno. Paco, ben trovato. Ciao, ciao a tutte e tutti, buongiorno. Anche questo mese abbiamo avuto molte novità in catalogo, adesso poi ci fermeremo un po' come tutti per la pausa estiva piano piano. E vi segnalo, in realtà abbiamo avuto molte acquisizioni, molte iniziative, ma vi faccio una piccola selezione di due o tre opere principali. Anzitutto il lancio di Prima che arrivi l'estate di Francesco Di Martino, un film che abbiamo già avuto modo di raccontarvi purtroppo tra virgolette da più di un anno, nel senso che è uno dei film che abbiamo coprodotto assieme a Frame Off, che è rimasto fermo e che doveva uscire ancora l'anno scorso. Finalmente adesso uscirà sia in sala con una prima selezione estiva e poi in autunno. Si spera in maniera più corposa in base anche a come andrà la situazione delle sale cinematografiche, e abbiamo deciso anche di aprirlo all'on demand sul catalogo almeno temporaneamente per riuscire insomma a mostrarlo un po' alla nostra community. Per chi non lo sapesse, Prima che arrivi l'estate è una storia girata vicino all'Adamello su in Val Camonica in provincia di Brescia, e che racconta la storia di Italo, un personaggio molto particolare conosciuto in zona, che dopo aver partecipato a una lunga stagione di lotte nella provincia di Brescia, che si apre infatti con un passaggio anche su quello che è stata la strage di Piazza Loggia, decide di avviare un proprio percorso di vita e di benessere personale, isolandosi in qualche maniera dalla città. E però la cosa molto bella è che ha continuato a sperimentare pratiche anche di lotta, e ha conosciuto poi negli anni 90 le comunità indiane nordamericane, e ha cominciato tutto un percorso di scambio con queste comunità che spesso arrivano anche a Brescia adesso da un po' di anni, e con le quali si fanno tutti i momenti di confronto anche sulle diverse forme che la lotta nei territori assume. È un film molto particolare, è un film biografico, è un po' di tempo che accogliamo anche opere su portaggio biografico, e vi consiglio caldamente di vederlo perché ha i pregi di essere un film biografico, ma va anche oltre quello che poi sono a volte i limiti del film biografico, cioè riesce comunque a fare non solo la caratterizzazione di questa storia, di questo personaggio, ma anche quello che invece è la vita anche dello scambio politico di queste lotte di comunità, io le chiamo, diciamo, nel senso che tanto quanto appunto nel rapporto con il proprio territorio, con l'ambiente, l'Italo e il suo gruppo hanno sviluppato negli anni una serie di percorsi, dall'altra parte per esempio tutto lo scambio con le comunità e lotta di indigene in Nord America, la vicenda anche per esempio del gasdotto, si era parlato con la comunità Dakota negli anni scorsi, anche quella comunità è venuta in Val Camonica e ha attivato tutto un percorso di scambio culturale e anche di immaginari, quindi è un film molto particolare che vi consiglio di vedere. Dopodiché un altro film molto forte che abbiamo acquisito è La Green. Da un po' di tempo abbiamo aperto un sodalizio con una distribuzione internazionale che si chiama Java Film, che è una distribuzione che propone dei titoli veramente importanti, tra cui il film 3387 che abbiamo lanciato il mese scorso. Nasrin invece racconta la storia di Nasrin, vediamo se riesco a dire il cognome giusto, Sotoudeh, che è un'attivista per i diritti civili e umani iraniana, donna, e che si conosce un po' questo tipo di narrazione, di racconto, è un personaggio molto, molto famoso, anche perché molto conosciuto, anche perché si è occupata ovviamente principalmente di diritti delle donne in un paese dove comunque delle difficoltà da questo punto di vista è abbastanza evidente, ci sono soprattutto legate anche al tema religioso in qualche maniera, e è diventata in qualche maniera una figura internazionale da questo punto di vista, tant'è che anche Amnesty International nel periodo di prigionia che ha subito Nasrin si era mossa con una campagna internazionale, infatti il film stesso che racconta un po', diciamo, a 360 gradi quello che è la storia di Nasrin e di ciò che ha vissuto, è un film patrocinato da Amnesty. Vi segnalo anche come ultima segnalazione nella sezione editorie il nuovo libro curato da Edizioni Kairos, la casa editrice indipendente di Roma, dedicato al ventennale di Genova. È un ventennale che sappiamo bene sta arrivando e cade anche in un momento storico molto particolare, quindi dal mio punto di vista personale si aprono tanti ragionamenti, nel senso che davvero in qualche maniera è un ventennale che può superare anche la chiusura di un ciclo in qualche maniera, e credo che dobbiamo ritagliarci, ci sia urgenza di ritagliarci lo spazio adeguato per riflettere su questo ventennale, sul ventennale di Genova. Per fortuna adesso tra l'altro riusciamo anche a rivederci di persona un po' più facilmente, e credo che ci sia davvero necessità di un'analisi collettiva, di un aggiornamento collettivo, sfruttando in qualche maniera anche la data di questo ventennale. Anche qui a Bologna, per esempio, anche a Valle del Santulo faremo molte iniziative da qui alle giornate di Genova a fine luglio, e credo che ci sia la necessità veramente di continuare a fare un percorso di rielaborazione anche attraverso lo strumento del cinema e dell'editoria. Genova 2001-2021, cerchi nella memoria, va in questa direzione ed è una nuova produzione molto interessante che sta seguendo alla collana delle produzioni editoriali di Elementi Kairos, che assieme a tutti gli altri titoli in catalogo trovate nella sezione dedicata sul nostro portale di openbdb.it. Pago un abbraccio e alla prossima! A presto, grazie. A presto. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.